La Rosa Purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati amici, una super puntata della Rosa Purpurea con tanti film in uscita questa settimana, finito il Festival di Cannes, con novità nelle sale ma anche con tanti ospiti nella nostra puntata. Avremo davvero nomi importanti del cinema italiano e internazionale. Allora, cominciamo subito a entrare nel vivo della trasmissione con i principali temi nei titoli di testa. I leoni concludono la loro corsa al cinema. In sala Una notte da leoni 3, ultimo capitolo della saga con Bradley Cooper e Zach Galifianakis. Da Los Angeles a Tijuana in Messico e di nuovo a Las Vegas per venire a capo del rapimento di Doug. Assassinio e vendetta a Bangkok. Sono gli ingredienti di Solo Dio perdona, il nuovo film del regista di Drive Nicholas Winding Refn che ritrova Ryan Gosling. Un americano in Thailandia, l'omicidio del fratello, un ex poliziotto spietato come l'angelo della morte. Sarà una madre molto vendicativa a regolare i conti. Ascoltiamo l'intervista al regista. Torna nella magia della sala cinematografica, in edizione restaurata, Vogliamo vivere, il capolavoro del 1942 di Ernest Lubitsch. Straordinaria commedia sull'ascesa del nazismo e l'invasione della Polonia, neutralizzati da una coppia di attori teatrali. Protagonista, una bellissima Carole Lombard. 26 anni dopo la sua unica regia, Giancarlo Giannini torna dietro la macchina da presa con Ti ho cercata in tutti i necrologi, noir interpretato dallo stesso attore su un uomo che prima per bisogno, poi per ossessione, si offre come preda a pagamento di una caccia all'uomo. Alla Rosa Purpurea c'è Giancarlo Giannini. E allora cominciamo col film che è facile intuire, troveremo in vetta alla classifica lunedì prossimo, ovvero Una notte da leoni 3, terzo capitolo e ultimo, si dice, poi l'ultimo alla parola fine nel cinema in realtà non esiste mai, della saga fortunatissima del gruppo di scapoloni incalliti che cerca di venirne fuori da matrimoni fatti e disfatti. Terzo capitolo che dovrebbe riuscire a rispettare le aspettative di risate assicurate e di sceneggiatura a tutto volume e a tutta accelerazione, ce ne parla la nostra Chiara Pizzimenti. Mio Dio, ha la voce di un angelo. Cherubina. La voce angelica è quella di Alan, Zach Galifianakis, al funerale del padre, morto dopo l'ennesima follia del figlio 42enne ancora a carico. Ha acquistato, perché aveva sempre sognato di darle da mangiare dalla casa sull'albero, una giraffa e involontariamente l'ha decapitata. Alan ha smesso di prendere farmaci da quasi 6 mesi. Siamo tutti qui per parlarti di un posto che si chiama Nuovi Orizzonti. Dal nome sembra fantastico. È un centro psicoterapeutico. Ti accompagniamo noi e ti prometto che questa esperienza ti cambierà. Tu vieni, Phil? Gli amici, Phil, Bradley Cooper, Stu, Ed Helms e Doug, Justin Bartha, lo accompagnano, ma il viaggio è interrotto da un sequestro. Il solito povero Doug viene preso in ostaggio dal gangster Marshall John Goodman e dal suo scagnozzo Doug Nero. I ragazzi, per riaverlo vivo, devono ritrovare il loro amico cinese, Chao. Leslie Chao ha rubato 21 milioni di dollari che spettavano a me. E dico che il branco col suo fiuto lo troverà! Mi è arrivata una strana mail, magari a di Chao. Panzone, siamo vicini, non dire a nessuno Chao. È firmato Chao. Come hai fatto a non capire che era di Chao? Là per là ho pensato che fosse Chao un saluto, cioè ciao, arrivederci, ci vediamo. Prima tappa in Messico, poi si torna a Las Vegas, dove tutto era cominciato e dove pare esserci un'anima gemella anche per Alan. I Il terzo è meglio del secondo, ma non si avvicina al primo. Regola non scritta delle trilogie che vale anche per Una notte da leoni, giunta al terzo e ultimo film. Difficile non sia un campione d'incassi. Anche alla prima proiezione di giovedì pomeriggio c'era gente in sala, e non è cosa comune. E soprattutto il pubblico ha riso, segno che il format resiste. Non c'è la sorpresa della prima sbronza, The Hangover è il titolo originale, premiato anche con un Golden Globe, ma c'è qui una buona ripresa di location e temi del primo film. E soprattutto una preponderanza del personaggio di Alan. È Zach Galifianakis, con la sua venatura di infantile follia e la sua capacità comica, a reggere l'intero film. Non ne sopporterebbe un quarto, ma lo stesso regista Todd Phillips pare saperlo e chiude il cerchio in un modo che, come detto, agli spettatori non dispiace. Alla fine non ci ha delusi, è stato bello. Il migliore dei tre qual è? Il finale del terzo è il migliore, poi l'inizio del secondo, credo. Non ha deluso le aspettative, perché di solito il primo è bello, quelli dopo no, è stato carino invece. Quale dei tre film è il migliore? Li hai visti tutti e tre? Sì, il primo assolutamente. Carino, molto carino. Ingegnosi. Direi una degna conclusione della trilogia, davvero bello. Anche il fatto che siano tornati a Las Vegas, per me il primo e l'ultimo sono davvero i migliori. E allora, questo è il parere all'uscita della sala su Notte da Leoni 3, dicevamo prima della classifica, al momento guidata da Fast and Furious 6, che come avevamo detto settimana scorsa è facilmente pronosticato, ha fatto il botto al botteghino italiano con quasi 6 milioni di incasso nei primi 4-5 giorni di programmazione. Tiene molto bene al secondo posto La grande bellezza di Paolo Sorrentino, che purtroppo a Cannes è rimasto a bocca asciutta. Cannes, ormai lo sapete tutti, vinto da Abdelatif Kechiche con il suo La vida Adele. Comunque, dicevo, secondo posto per La grande bellezza, con 2 milioni e mezzo di incasso nei primi giorni di programmazione, e questa settimana il film sta lavorando ancora molto bene. Terzo posto per Il grande Gatsby, che è andato forse anche meglio del previsto per il momento in Italia. Poi al quarto posto Epic, una nuova entrata, un film d'animazione, e scivola al quinto posto Iron Man 3, che ormai sta veleggiando verso la fine dello sfruttamento commerciale. La rosa purpurea. E allora il cia-cia-cia della segretaria, versione francese, tratto dalla colonna sonora di Tutti pazzi per Rose, titolo originale Populaire, molto bello. Questa volta capiamo chi lo ha tradotto in italiano, perché Populaire, popolare, in italiano non voleva dire nulla. Lì invece è un gioco di parole anche con il nome di una macchina da scrivere, che è l'oggetto protagonista di questo film, come vedremo. Anche se Tutti pazzi per Rose forse cerca troppo, civetta troppo con Tutti pazzi per Mary. Ma insomma, commedia sì francese, ma tanto tanto americana nei modi espressivi, in quegli anni 50 color pastello mostrati in questa bellissima storia. Primavera 1958, Rose Pamphile è una ragazza di 21 anni, vive con un padre burbero in un piccolo villaggio della Normandia, dove il padre gestisce un emporio dove si vende un po' di tutto. In vetrina c'è una macchina da scrivere, è l'oggetto che in quel momento può significare anche emancipazione. Sono tante infatti le ragazze che cercano di fare la segretaria, di arrivare a essere una brava dattilografa per poter lavorare magari chissà nelle grandi città. Rose è sostanzialmente promessa sposa al figlio del meccanico del posto, una storia vista e rivista, ma lei non ci sta dentro questi panni stretti di futura e mansueta casalinga, vuole qualcosa di più, e allora parte per Lisieux, che è una località leggermente più grande della sua, sempre nella bassa Normandia, dove Louise Echard, titolare di un'agenzia di assicurazioni, cerca appunto una segretaria. Il primo colloquio è tutto un programma. Il suo nome, zuccherino? Rose Pamphile con la Y. Sono di San Frembull. Cosa la porta qui, Rose Pamphile con la Y? San Frembull non è dietro l'angolo. Ho sempre lavorato all'emporio di mio padre finora. È il numero uno del paese. È importante essere il numero uno. Sono un po' stanca del commercio. Le opportunità sono rare dalle mie parti. Se vuoi diventare una segretaria... Ah, oggi tutte le ragazze lo vogliono. È la moda del momento. Essere segretaria è moderno. Ti fa incontrare un sacco di gente, girare il mondo, lavorare per persone importanti. Nel mio caso farebbe appena il giro di Lisieux. Non è male come inizio. La realtà è meno bella di quello che dicono. Non tutti i capi hanno avventure incredibili, tanto meno le segretarie. Buon ritorno a casa. Ho bisogno di questo lavoro, signore Char. L'unica cosa che faccio bene è battere a macchina. Quello mi sembra il minimo per una segretaria. E invece quello sarà il viatico per il successo di Rose. Nonostante, come avete sentito, il colloquio non sia andato granché bene, la sua capacità di scrivere solo con due dita, ma in maniera velocissima sulla macchina da scrivere, fa venire in mente un'idea meravigliosa al principale. Rose, la osservo da una settimana. Non mi sembra che lei sia felice qui. Ho comprato un manuale di stenografia proprio ieri. Non ne ha bisogno. Mi ci butto a capofitto. Sì, le farò vedere come... Lei perde il suo tempo. Ma non è vero. Guardi come padroneggia il centralino ormai. Fra poco... Semplicemente io non penso che il suo futuro sia qui con me. A meno che lei non accetti di fare una piccola cosa. Tutto quello che vuole. Ce l'ho in mente dalla prima volta che l'ho vista. Non riguarda propriamente il lavoro. Ma sono certo che poi sarà felice, zuccherino. Rose! Guardi che mi ha frainteso. È lei che ha capito molto male, se pensa che sia così facile portarmi a letto. Signora Berlia, lei è pazza. Solo un povero ubriaco le farebbe delle proposte. È qui che io la voglio, non nel mio letto. Campionato regionale di velocità dattilografica. Un vero e proprio sport, battere a macchina molto molto velocemente. Campionati regionali, poi campionati francesi, poi addirittura campionati del mondo. Quella di Rose sarà una vera e propria ascesa verso l'Olimpo delle dattilografe. Imparerà a scrivere con tutte le dita, scalzerà la reginetta presente in Francia, diventerà testimonial di una nota macchina, una nota marca di macchine da scrivere transalpina. Insomma, diventerà qualcuno, ma insieme diventerà anche l'oggetto di un desiderio nuovo da parte del suo principale, che fino a lì sembrava essersene accorto solo per le sue doti di dattilografa, e invece capisce che quella ragazza con la sua naturalezza può essere la forza che lo tira fuori da un passato tormentato e non particolarmente superato. Ci sono momenti in questo film che sono davvero straordinari, come quelli appunto delle gare, decine, centinaia di dattilografe tutte insieme in grandi ambienti. Per la prima manche servono almeno 360 caratteri al minuto. Arrivare in fondo alla gara equivale a correre i 5.000 metri. Battere su dei tasti lo posso fare anch'io. Ah sì, vada a dirlo a quelli della giuria. Della giuria? Ogni lettera sbagliata, invertita o mancante, ogni parola in più, ogni interlinea non rispettata sono 100 caratteri in meno. Vorrei tanto vederla al posto di quelle ragazze. Sono sensazionali! Sono sensazionali! Signorine, per favore, attenzione, mani sulla tastiera. E allora, dirige Régis Roansart, opera prima regia per lui. Nel cast, oltre ai due protagonisti, Romain Duris nei panni del principale e Deborah François in quello della bellissima Rose con questa frangetta bionda sempre sul taglio degli occhi, c'è anche Bérénice Bejo, l'attrice protagonista di The Artist, la ricorderete, in un ruolo secondario ma molto importante nell'economia del film. Prodotto da Alain Attal, un nome di garanzia per la produzione in Francia, un film che esteticamente sta un po' dalle parti di Douglas Sirk, di Billy Wilder, della grande commedia americana degli anni 50, un po' anche dalle parti di Jacques Demy, dei suoi colori, della sua musicalità, tanto che sembra un copione praticamente pronto, praticamente nato per essere e per diventare un musical. È un film gioioso che però dietro la gioia, e qui c'è un po' la lezione di Demy, fa passare dei messaggi importanti, che sono quelli dell'emancipazione, di quei favolosi fine anni 50 che tanto inducevano e immettevano invece negli anni 60, che sarebbero stati quelli dell'emancipazione della donna, del sogno di essere altro da un cliché già precostituito, del rapporto anche che può portare un uomo ad avere in una donna l'elemento scatenante di qualcosa che c'è dentro e che non riesce a venire fuori. Non vi dico di più perché è importante nell'economia del film. Insomma, un film dalle tante letture, dai tanti livelli, ma dal grandissimo divertimento. È una vera e propria ondata emozionale di colori che si abbatterà fino alla fine. Questo è Tutti pazzi per Rose, assolutamente consigliato in questo fine settimana in sala. Tocca giocare, è arrivato il momento di giocare dopo aver raccontato Tutti pazzi per Rose, che era stato mostrato anche al Festival del Cinema di Roma. Cominciamo con la prima clip del film misterioso di oggi. La tombola ha delle regole ferree. La tombola, non il bingo. da sempre in tutte le famiglie. Dico, chi siamo noi per cambiare queste regole? E allora la Rosa Purpurea @radio24.it, avete capito di che film si tratta? Scriveteci al nostro indirizzo di posta elettronica il titolo del film, il vostro indirizzo, io mi raccomando sempre, il vostro indirizzo è fondamentale, completa la vostra risposta per provare a vincere una copia di questo film in un video, ovviamente più tardi ci saranno altre due possibilità. E adesso è il momento di parlare di un altro film, un film italiano sebbene girato in Canada, ma soprattutto una firma italiana importante, quella di Giancarlo Giannini, che torna alla regia 26 anni dopo il suo precedente Terno Secco. Era stata la prima regia di questo straordinario interprete della commedia italiana degli anni 70 e che adesso invece torna appunto con Ti ho cercata in tutti i necrologi. Una storia davvero strana, davvero particolare, quella di un becchino, di un uomo che per lavorare trasporta i morti. Il senso della morte è molto presente nel film. Una sera, durante una partita a poker in una mega villa finita male, si trova pieno di debiti. Come pensa di riscattarli? Anzi, come pensano gli altri, i suoi creditori, i vincitori del poker, di riscattarli? Dicendogli: tu hai 20 minuti per scappare all'interno di questa tenuta, di notte, nella nebbia, all'interno del parco, e noi per 20 minuti ti daremo la caccia. Se ti prendiamo, ti uccidiamo. Se non ti prendiamo in 20 minuti, tu sei libero e hai saldato il tuo debito. È una situazione chiaramente paradossale nella quale quest'uomo si trova catapultato, ci prova, ci riesce. Da quel momento in poi entra in una sorta di dimensione demoniaca nella quale va a cercarsi questo tipo di situazione, anzi la promuove per soldi, ma quasi più per bisogno, un bisogno crescente, un demone che si impadronisce di lui. Farà altre cacce, sarà la preda di altre cacce all'uomo, in cantieri, in mezzo alla neve, in mezzo a un lago, ce ne saranno di tutti i tipi di scenari, sempre 20 minuti di tempo per provare a trovarlo e a ucciderlo, o se no soldi che diventano sempre di più, fino a quando dentro la sua vita non arriva una giovane ragazza molto bella che avrà un ruolo che non è solamente quello di una donna di cui lui si innamora, ma sarà qualcosa di più. Allora noi, per parlare di questo ritorno alla regia di Giancarlo Giannini, abbiamo intervistato il popolare attore e abbiamo intervallato l'intervista con alcune clip del film. Sentiamo. Ciao, sono Hélène. Ti ho cercata in tutti i necrologi. Giancarlo Giannini, ben ritrovato qui alla Rosa Purpurea per parlare di un film da regista. Ti ho cercata in tutti i necrologi. Sì. Titolone. Titolo impegnativo. 26 anni dopo la precedente regia, cioè, cos'è scattato dopo così tanta carriera a ritornare dietro la macchina da presa? Ma sai, il mio mestiere è quello dell'attore. Io ho fatto una regia una volta perché mi piaceva raccontare quella storia. Poi da tanti anni che penso a questa, che nasce da una storia vera, insomma, di uomini cacciati in Africa, non ti sto a raccontare, e finalmente ho deciso di farla, non in Italia, al di là dell'oceano, ambientata in Canada, ambientata in posti meravigliosi, il finale è in Monument Valley, cioè quelle terre meravigliose dei film di John Ford che ho sempre amato da bambino. Sono sbarcato con un elicottero, macchine da presa, e ho fatto questo finale in una terra, devo dire, voluta da me come ultima caccia, perché è un film dove c'è molta azione, ci sono molte cacce ambientate in vari posti, perché lì la dimensione dell'uomo secondo me è straordinaria, gli orizzonti, questi spazi, il senso dell'uomo e l'infinito è veramente qualcosa che ti colpisce. Il film ha anche un senso proprio mistico di finale così, e quindi l'ho voluto finire in una terra che amo molto. Quindi un film che potevi in certo senso fare solo tu in questo senso, cioè per personalizzarlo nei contenuti, nei significati. Ma sì, perché insomma un po' metti a frutto tutta l'esperienza che hai avuto nei film, hai lavorato con tanti registi, hai capito le teste di queste persone che raccontano le favole, loro come direttori e tu come autore proprio, no? Il bello del rapporto con il regista è questo, non tanto la storia che sta raccontando, ma i mondi che si incontrano, che si vogliono poi proporre a questa favola, al pubblico. Non solo, guarda, qui una volta si faceva, lo facevano anticamente, l'ho fatto, questa storia per me ho passato mesi e nottate a divertirmi a disegnarla inquadratura per inquadratura, non tanto per fare il famoso storyboard che serve molto, ma per capire meglio cosa stavi raccontando. Quando la matita cade sulla carta e devi fare un'espressione di un attore ci pensi molto, e quindi ti aiuta ad essere più veloce, più sicuro sul set di quello che vuoi fare. Mi sei mancato. Sta zitta! Perché non mi hai sparato? Tu mi hai cercato e ora devi finire quello che hai cominciato. Chiunque tu abbia ucciso prima l'hai fatto solo per arrivare a me. Hai detto una storia vera alle spalle, abbastanza agghiacciante, visto il film poi, cioè di un uomo che diventa preda per soldi inizialmente, ma poi diventa quasi un modo di essere, un modo di vivere, di esistere. Esatto, cioè diciamo che un demone lo prende, Nikita, il personaggio che faccio io, protagonista, è una persona veramente pulita, veramente semplice, uno come tutti noi che si trova coinvolto in fondo alla lotta del male, il bene, insomma, il male agisce in questo caso con delle armi, il bene si propone così, nudo, ed è in fondo la ricerca di una voglia di essere qualcosa, un'identità, e poi c'è questa struttura portante, molto articolata di azione, c'è questa storia d'amore curiosa con una donna, come tutte le donne al cinema non sono mai lineari le storie d'amore, ma sono con donne che, come in questo caso, belle, belle, misteriose, bugiarde, e quindi crea questi cambiamenti e colpi di scena del film, che direi che è proprio la protagonista che indirizza il film in varie direzioni. Io mi fotto! Ho vinto! È un film che guarda quasi più all'estero, secondo te, che al nostro mercato del cinema, dove magari questo tipo di film è in questo momento un pochino più stretto nelle maglie della programmazione italiana? Ma sai, non è che si fa un film, non è che il dottore mi ha detto che devo fare il regista, devo fare il film, devo fare l'attore, il dottore attore. Fai quello che credi, le storie, anche quando ho fatto, non so, Pasqualino, Sette Bellezze, un film nel quale nessuno credeva, dice: ma come fai un film sui campi di concentramento? Dicevo: no, è Pulcinella nei campi di concentramento, un film che poi ha avuto 4 nomination all'Oscar. Non era un film fatto per, ma i personaggi, quando hanno una forte e densa coscienza umana, è una cosa, vanno bene in tutto il mondo. Il pubblico italiano è un po' strano negli ultimi tempi. In questi ultimi tempi è un po' strano, mi dispiace che non abbia vinto Sorrentino, non ho visto il film, ma dalle poche cose che ho sentito, le immagini, è veramente un visionario, un regista che ha coraggio. A me piace la gente che ha coraggio, che sfida. Ai miei ragazzi del centro sperimentale dove insegno recitazione dico sempre: ragazzi, cercate di fare le cose di fuori dalla convenzione, sbagliate, può essere un errore, ma se non è un errore è sicuramente una scoperta. Grazie. Grazie a voi. Se tu non mi uccidi, io ti uccido. Questa è la più bella dichiarazione d'amore che ho mai ricevuto. La rosa purpurea. So che per te è dura. Hai perso tuo fratello. Hai sistemato chi l'ha ucciso. È un po' più complicato di quello che sembra, mamma. C'è qualcun altro coinvolto nell'omicidio di Billy? Chi? Un poliziotto. Se fossi stato tu a morire, tuo fratello avrebbe trovato il tuo assassino e mi avrebbe portato la sua testa su un piatto d'argento! È tempo di incontrare il diavolo. Le note elettroniche e molto cupe della colonna sonora di Solo Dio Perdona, Only God Forgives, il ritorno in sala in Italia di Nicholas Winding Refn, il regista che ha, come dire, costituito negli ultimi 2, 3, 4 anni sicuramente uno dei colpi di scena, delle novità, delle aperture d'orizzonte del panorama cinematografico mondiale. Ancora con Ryan Gosling, esattamente come in Drive, forse troppo presto per parlare di attore feticcio, certo, come sentiremo fra poco in un'intervista nostra esclusiva per La Rosa Purpurea con Nicholas Winding Refn, il rapporto fra i due è molto stretto e simbiotico, ma anche con Kirsten Scott Thomas, con Tom Burke, e un cast che ci porta dritti dritti in Bangkok, dove un fratello viene ucciso, un altro rimane vivo, quello che viene ucciso un po' se l'è andata a cercare, diciamo così, l'altro cerca di arrabattarsi come istruttore di box, arriva la mamma, che è peggio, ma molto peggio dei figli, lì a Bangkok, per regolare i conti, non solo verso chi ha ucciso il figlio, ma verso il fratello, che non ha reagito, come avete sentito dalla clip, in maniera abbastanza veemente a quello che è successo. Il problema è che il male, dall'altra parte, è forse ancora peggio, ancora più spietato. È un duello continuo fra il capo della polizia, che conduce in realtà le immagini, ma una sorta di vendicatore, di giustiziere molto molto spietato, e questa madre, questa figura di Kristin Scott Thomas, decisamente sopra le righe, ma decisa a, sicuramente a onorare, a vendicare e a lavare appunto con la vendetta l'onore del figlio ucciso. Un film di vendetta, non solo però un film di vendetta, così è solo Dio perdona. Noi ne chiediamo conferma al nostro Boris Sollazzo, che è in collegamento con noi. Ciao Boris. Ciao Franco, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, dicevamo, ne abbiamo visti di film di vendetta. Qui c'è lo stile di Nicholas Winding Refn applicato a un plot, a un format molto orientale. Sì, decisamente. Se vogliamo fare proprio una provocazione, sono contenuti quasi da poliziottesco, di quelli più feroci che c'erano da noi in Italia, quelli con Merle e compagnia, e un'atmosfera che parte da Jodorowsky e arriva appunto a quello che più che Bangkok è Hong Kong, per intenderci. È un film molto particolare per quanto riguarda l'estetica. Nicholas Winding Refn si è portato a casa 2 anni fa un premio alla regia a Cannes, uno dei più meritati. Se c'è una cosa che sa fare è muovere la macchina da presa, e anche qua lo dimostra. Il problema è che in Solo Dio Perdona c'è questo, le luci a neon di una Bangkok abbastanza alienante, e davvero poco altro. Mi sembra che se in Drive si potevano vedere tutte le potenzialità, che a mio parere si erano già viste in Bronson, che però aveva avuto meno diffusione, di un grande regista, qui però ne cogliamo invece tutti i difetti, a partire proprio da quell'attore che per lui più che un feticcio è un amico, un sodale, qualcuno con cui è rinato, diciamo, anche la storia che li ha portati a lavorare insieme è molto buffa, molto particolare, una serata di bagordi che è trasformatasi poi in sodalizio lavorativo. E a partire proprio da Ryan Gosling si vedono secondo me tutti i limiti. Si diceva di Clint Eastwood da solo due espressioni, con il cappello o senza, si può ridire di Ryan Gosling dicendo che ha solo due espressioni, tu m'hai fatto e non, perché proprio per fargli cambiare espressione ho l'impressione che Winding Refn lo faccia picchiare a ogni film per avere appunto un altro tipo di espressività. E il film è scritto pochissimo, è tutto fondato appunto su questo personaggio che è sempre molto immobile, molto silente, molto perdente, vittima di un vendicatore, di questo angelo vendicatore che è un ex poliziotto, ma anche vittima di questa Kristin Scott Thomas che bontà sua Refn ha voluto, come dire, modellare su Donatella Versace. Per sua fortuna Kristin Scott Thomas gli ha dato uno spessore ancora maggiore. Però francamente al di fuori del film di serie C o di serie B d'azione, secondo me non si va. Certo, girato da Refn, e questo lo rende sicuramente molto interessante, lo rende forse meritevole di essere visto almeno una volta, però di sicuro dalla trilogia di Pusher fino a Drive, passando per Bronson, questo rimane il film più deludente di Refn, e sono abbastanza d'accordo con la reazione che c'è stata a Cannes, che è stata una reazione, un moto di forte delusione con tanto di fischi. Sembra essere il tentativo pretenzioso di tornare alle proprie origini non riuscito. Forse ha pensato troppo presto, quindi Refn, di avercela fatta, di aver messo il cappello su un genere e di poterlo portare avanti. E allora andiamo ad ascoltare l'intervista concessa da Nicholas Winding Refn al nostro Boris Sollazzo. Può raccontarci la relazione che si crea con i suoi attori protagonisti, e in particolare con Ryan Gosling, che insomma esce sempre particolarmente tumefatto dai suoi film, tra le altre cose. Io e Ryan siamo molto amici, per cui lavorare insieme è facile. È più facile comunicare. Quindi è più divertente fare questo viaggio insieme. Devo dire che gli attori sono l'elemento più importante del tuo lavoro, perché è attraverso loro che esprimi le tue emozioni, attraverso la loro recitazione che realizzi quello che vuoi dire. So it's all about the acting. In questo senso lui lo fa lavorare molto sul silenzio, cioè fa un lavoro molto diverso rispetto ad altri attori. Ryan ha questa dote particolare. Riesce a dire 1000 parole senza pronunciare neanche una battuta, neanche una frase. Ha questo talento, questa capacità di esprimere le emozioni attraverso il movimento, le espressioni del viso. A me piace moltissimo il cinema del silenzio, perché costringe il pubblico ad accompagnarti in questo viaggio senza sapere dove sta andando, quindi senza poter prevedere in che direzione sta andando. And I like the cinema of silence because it forces the audience to go on a journey with you that they can't predict. Lui cerca sempre di raccontare donne che hanno un'apparenza molto bella, molto particolare, in contesti molto difficili, diciamo. Christine Scott Thomas nella difficult dimostrazione. Cosa lo spinge il voler mettere in pericolo quella bellezza? Well, I guess, you know, fetish has very many different meanings, but, suppongo che il termine fetish abbia dei significati molto diversi. E personalmente credo che per quello che riguarda Christine Scott Thomas, lei abbia un lato che fa veramente tanta paura, unito a un lato che è estremamente sexy. Immagino che forse in questo caso io abbia provato a immaginare che cosa potesse significare fare sesso con Donatella Versace. La sua Bangkok ha delle luci particolarissime, delle musiche particolarissime. Mi chiedevo se c'è un'ispirazione anche di un certo cinema di genere, sia orientale, sia nella trama, forse anche italiano. Verissimo. Ci sono degli elementi degli spaghetti western, ci sono alcuni elementi del cinema orientale e ci sono alcuni elementi dello spazio esterno alieno. E allora, grazie Boris Sollazzo, questo era Nicholas Winding Refn, solo Dio perdona nei cinema italiani. Alla prossima, Boris. Alla prossima settimana. E allora, siamo arrivati alla seconda traccia del film misterioso di oggi. Dai, ora hai anche un fratellino. Sì, peccato che io sono adottivo. Cosa? L'ha detto papà. Io sono adottivo e lui è quello legittimo. Papà, ma questo è un mostro, dai. Ha detto che mi avete preso a 2 anni perché mi sono morti tutti e 2 i genitori. La Rosa Purpurea, @radio24.it, come sempre il nostro indirizzo di posta elettronica, titolo del film, vostro indirizzo, provate a vincere una copia per il sabato e una per la domenica in un video di questo film, più tardi avremo l'ultima possibilità. Signori, il Führer vi aspetta, vuol parlare subito con voi due, venite, intanto qui vi sostituirà il tenente. Agli ordini, mio Führer. Buttatevi. Heil Hitler! Heil Hitler! Ragazzi compiacenti. Una delle scene straordinarie di un film straordinario, To Be or Not To Be, Vogliamo Vivere, il titolo italiano, che torna in sala e noi ne parliamo proprio con Vieri Razzini della Teodora, marchio del cinema d'autore di qualità da Cineteca, che mai finiremo di ringraziare abbastanza per il lavoro straordinario che fanno sia per l'on video sia anche per la sala. Ciao Vieri, ben ritrovato alla Rosa Purpurea. Ciao, come stai? Tutto bene, tutto bene. E soprattutto tutto bene dopo aver rivisto Vogliamo Vivere, restaurato, rimasterizzato con questo suo bianco e nero che sembra quasi colore, e aver rivisto sul grande schermo il Lubitsch Touch, il famoso tocco di Ernst Lubitsch, che faceva delle sue commedie anni 40 una serie di capolavori irripetibili. E questo, To Be or Not To Be, con una straordinaria e bellissima Carol Lombard, con Jack Benny, è davvero uno di quei film. Un film che voi avete riportato in sala proprio in questo fine settimana, se non sbaglio 11 schermi nelle principali città italiane, per andare a vedere questa meraviglia dove deve essere vista, ovvero sul grande schermo. Dunque io, senti, il film lo conosco, insomma, essendo uno dei film della vita, diciamo che lo conosco molto molto bene, però ieri sera sono andato a rivederlo perché in realtà non avevo avuto occasione di rivederlo sul grande schermo, insomma, per verificare la copia, eccetera, l'aveva fatto qualcun altro. Non avevo visto neanche il trailer, che è stato in sala da più di un mese. E allora, veramente cambiano le cose. Io che poi naturalmente invece sono stato uno specialista del cinema in televisione, però sul grande schermo proprio mi sono accorto di cose, come sono perfette le scene d'azione, come sono straordinari i movimenti dei soldati, dei resistenti, eccetera, eccetera, e mi ha molto colpito questo fatto. Quello è proprio un effetto del grande schermo, cioè quelle cose erano ideate per il grande schermo. Come da fare? Allora tutto ha un rilievo abbastanza diverso. Poi il film è un capolavoro in qualsiasi dimensione. Assolutamente, lo puoi vedere anche sul telefonino, ma rimane un capolavoro. Tra l'altro, un capolavoro di un'importanza veri straordinaria. Un film girato, concepito nel 1941, uscito nel 1942, cioè in pieno nazismo, in piena seconda guerra mondiale, che fa una parodia del nazismo, ma non solo, che è parallela a quella di Chaplin, del grande dittatore. Cioè, è un film di quell'importanza lì, sostanzialmente. Sì. Chaplin ha aperto la strada l'anno prima, e tutte e due dei geni, come sappiamo, non abbandonano la loro vena comica, non possono intervenire nel discorso, nella temperie, se non proprio affidandosi alla illusione comica, a quello che è il loro mestiere, a quello che sanno fare. E quello che mi sembra bellissimo di questo film, di To Be or Not To Be, è che poi la trama del film rispecchia esattamente questo, perché questi attori che diventano dei partigiani veri e propri, diventano dei partigiani all'inizio quasi inconsapevolmente, sono tirati dentro questo vortice di avvenimenti, combattono esclusivamente con le armi del teatro. Non c'è mai una pistola, non c'è mai un'arma tradizionale in mano a questi protagonisti, ma usano invece tutte le armi dell'illusione comica, i travestimenti, le barbe finte, gli scambi di persona e soprattutto, meravigliosa, la capacità di improvvisare, che è quello che un bravo attore deve saper fare. Assolutamente. Quando si trova i cattivi frangetti, deve saper dare un risvolto alla situazione. Deve saper non uscire dal copione. Tra l'altro, ricordiamola, esatto, proprio in sintesi, in pillole, la trama: marito, moglie, attore di una compagnia teatrale polacca, che tra l'altro sta allestendo una sorta di satira antinazista, ma viene bloccata dalla censura. Vanno avanti a fare questo Amleto, e anzi, questo Mercante di Venezia. L'Amleto. Ah, sì, esatto, questo Amleto. No, c'era anche una roba su Shylock, ma non c'entra. E la cosa bella è che a un certo punto scoppia la guerra e questi due si trovano a dover, con le loro armi attoriali, cercare di ribaltare la situazione sostanzialmente di occupazione della Polonia, che è il loro paese. Mi ha colpito, per chiudere, Vieri, anche l'eccezionale lavoro sulle masse. C'è un lavoro con un film con scene di massa. Hai visto? Che è incredibile, a parte che oggi non lo farebbero, perché comunque costerebbero troppo, ma ci sono situazioni dove vengono dirette centinaia di comparse di attori. È davvero un film grande, grande anche nella concezione. Sì, è un film fatto in grande, sai, Lubitsch, voglio dire, aveva molto potere, diciamo, non è che si accontentava di una piccola produzione così, però quello che effettivamente mi colpisce moltissimo è che nella commedia, anche nelle stesse di Lubitsch, non ci sono tradizionalmente delle cose spettacolari o azione. Gli unici proprio che questo è invece un esempio, appunto, che è anche un film d'azione, diciamo, per quello che dicevo prima, come sul grande schermo poi te ne rendi ancora più conto di quanto sono curate, di quanto sono perfette anche quelle, certo, quelle scene. E ci sono anche... L'unico altro era Frank Capra, che faceva, certo, delle commedie d'azione. Accade una notte è una cosa, anche l'invenzione del genere on the road, no? Insomma, ecco, però... No, e poi la cosa che ho trovato molto interessante e molto seminale è questo prendersi gioco della guerra, che sì, vero, il grande dittatore, però ritroveremo tipo in Dottor Stranamore, cioè c'è molto anche in Dottor Stranamore di alcune situazioni di questo tipo, ci sono le scene aeree, c'è, appunto, no, l'abbiamo come sentita, no, prima nella clip, il paracadutista fedele a Hitler che si butta senza guardare da un aereo in volo. Ecco, ci sono situazioni che da lì in poi avrebbero germogliato e sarebbero diventate il cinema che abbiamo conosciuto dopo. Grazie tanto davvero a Vieri Razzini. Io ricordo ancora: grazie, 11 sale in tutta Italia per To Be or Not To Be, Vogliamo Vivere. Ciao Vieri. Grazie, a presto, ciao Franco. La Rosa Purpurea. Quarta parte della Rosa Purpurea, siamo alle visioni domestiche, siamo ai film da vedere sul piccolo schermo per rinverdire le nostre velleità cinematografiche e cinefile con gli amici di Film TV, con Giulio San Giorgio in redazione, che ci racconta un po' che cosa abbiamo scelto questa settimana. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. E allora, cominciamo con un film recente, molto interessante, che fa un po' il punto, fa un po' la sintesi sullo stato di salute di un certo cinema argentino capace di film di grandissima intensità. È il caso di questo film, Il segreto dei suoi occhi. Esattamente domenica, Il segreto dei suoi occhi, su Rai 3, alle 21.05, quindi in prima serata. C'è un assistente del pubblico ministero in pensione che vuole scrivere un romanzo, ripensando e riaprendo un caso degli anni 70 su una ragazza stuprata ed uccisa. C'è l'amore del marito della donna, un amore negato dall'omicidio, e c'è l'amore che l'assistente del pubblico ministero, quindi il nostro protagonista, si è negato per tutta la vita. In questo film di Juan Campanella le indagini e il thrilling si vestono di melodramma, un melodramma trattenuto e decisamente doloroso. La riflessione sulla memoria e sul lutto abbracciano l'amore in una danza dolente tra Eros e Thanatos. Premio Oscar 2010 al miglior film straniero, è un esempio di intrattenimento popolare ma intelligente e pensante, con una sequenza d'apertura da urlo e un colpo di scena finale illuminante. E allora, Il segreto dei suoi occhi in TV domenica 2 giugno 21.05, prima serata su Rai 3, un film assolutamente da non perdere, così com'è da non perdere o da non farsi sfuggire il prossimo film, la prossima segnalazione, Distretto 13, uno dei più bei capolavori secondo me del cinema di John Carpenter, che torna in TV. Assolutamente d'accordo, giovedì Distretto 13, Le Brigate della Morte, Re Movie 23.10, quindi siamo veramente al cospetto di uno dei massimi film di John Carpenter, uno che usa il cinema di genere come grimaldello per parlare anche del proprio tempo. Qui trasforma quello che è il suo film preferito, che è Un dollaro d'onore di Howard Hawks, in una sorta di archetipo narrativo di cui replica i temi e i tempi, e ne viene fuori un western urbano dall'estetica e dall'ideologia come al solito dirompente, dove lo stile del cinema classico è usato per raccontare incubi e paranoie che dominano la contemporaneità. Un film assolutamente da non perdere. Un film da non perdere e che ha anche delle venature thriller, perché gli altri che ti assalgono e che ti cingono d'assedio sono qualcosa che chissà perché nella grande regia di Carpenter diventa qualcosa quasi di soprannaturale, anche senza esserlo. È il clima Carpenter, proprio quello lì, quindi funziona proprio così. E allora ricordiamo l'appuntamento, Distretto 13, giovedì 6 giugno 23.10 su Rai Movie. Grazie Giulio, appuntamento alla prossima settimana. Grazie a te Franco, alla prossima. Terza e conclusiva traccia del game di oggi. Come la capisco? Come fa a capirmi? La sua sembra proprio la famiglia perfetta. Una famiglia perfetta non esiste. Beh, la sensazione la sua si avvicina molto. Anzi, secondo me è proprio il destino che mi ha portato qui per mostrarmi quello che mi sto perdendo. La Rosa Purpurea è @radio24.it. Di che film si tratta? L'avete indovinato? Scrivetecelo col vostro indirizzo e provate a vincere una copia in DVD sia per il sabato che per la domenica di questo film che sveleremo fra 7 giorni. Così come ora sveliamo il film di 7 giorni fa. 5.000 euro online, 6.000 euro, 7.000 euro. 8.000 euro, 9.000 al telefono, 10.000 il signore, 11.000 euro online, 12.000, 13.000 online, 14.000, 15.000, questo non va bene per il mio collo, a 15.000 euro. Insomma, il clima di una grande asta d'arte, il film era La migliore offerta di Giuseppe Tornatore, film che tra l'altro è in lizza proprio con La grande bellezza di Paolo Sorrentino per I nastri d'argento, è uno dei favoriti, è un film che è uscito recentemente per Warner in Blu-ray e in DVD ed è stato il nostro game della scorsa settimana. I più bravi e veloci a indovinarlo il sabato e la domenica sono stati Pietro Ammaturo di Palma Campania, provincia di Napoli, e Franca Corradini di Pisa. Saranno loro a ricevere la copia in Blu-ray di questo film, uno dei più bei film italiani della stagione. Fra poco sentiremo tra l'altro Giuseppe Tornatore a proposito. Prima però facciamoci raccontare questa edizione, un video dal nostro Claudio Pofi. Ciao Claudio. Ciao Franco, un saluto agli ascoltatori. Sì, da Warner l'edizione è un video con uscita DVD e Blu-ray alta definizione. Quest'ultimo è più che mai fondamentale dal momento che la migliore offerta è il film che segna il passaggio del maestro Tornatore dalla pellicola al digitale, vista la sempre più esigua presenza di laboratori di sviluppo in grado di rispettare le esigenze artistiche dei cineasti. Un Blu-ray di eccellente resa d'immagine in cui qualche purista potrebbe avere da ridire sulla non uniformità dei fondali nei primi istanti del prologo. Audio DTS ad alta risoluzione multicanale italiano-inglese sono entrambi da sala cinema, sono assenti le tracce Dolby Digital segnalate sul prodotto. Come extra, un interessante documentario di 20 minuti sulla lavorazione. E allora, questo era appunto il film della scorsa settimana. Andiamolo ad ascoltare. Giuseppe Tornatore, raccolto durante la presentazione alla stampa a Milano di questa uscita in un video, raccontare cose molto interessanti sul suo metodo di lavoro. Io amo portarmi dietro le idee che mi piacciono a lungo, mi piace incubarle a lungo e solo quando mi convinco, possono passare anche anni, poi le scrivo e cerco di fare i film. In questo caso si trattava di una storia che avevo, intorno alla quale lavoravo già dall'84, della quale mi piaceva molto il personaggio, ma non mi piaceva molto lo sviluppo della storia. Poi 9 anni fa c'è stata un'altra storia diversa da quell'altra, non c'entrava niente, che parlava di un altro personaggio e anche lì non ero molto convinto. Finché un giorno mi sono divertito a far interagire tra di loro personaggi che facevano parte di due storie completamente estranee l'una all'altra ed è nata una terza storia diversa da quelle due ma che si nutriva dei protagonisti di quelle due e questa è la migliore offerta. Quindi è stata un'elaborazione lunga, ma cioè, non è che io sono stato dall'84 a lavorare solo a quello, cioè, ci lavoro ciclicamente, mi diverto ogni tanto a riprendere i miei pupazzetti e ci rilavoro un po' su. Quasi tutti i miei figli sono nati così, con una sola eccezione, che nella mia vita ho avuto una sola folgorazione che fu una pura formalità, cioè pensato, scritto, realizzato subito. Tutti gli altri film hanno avuto sempre lunghissime incubazioni. Io mi regolo così, non solo, credo di poter affermare che in questo metodo, in questo schema, più è lunga l'incubazione, più è facile la scrittura, più è corta l'incubazione, più è difficile la scrittura. Allora, quando mi viene in mente un'idea che mi attrae, l'ultima cosa che faccio è di scrivere. In genere quando un produttore mi convince a fare un film con lui, da molti anni a questa parte, devo dire, io amo proporgli più storie, scelgo 3-4 storie che a me piacciono tutte allo stesso modo, gliele propongo e lascio scegliere loro. La sconosciuta è nata così, portai ai miei amici di Medusa 5 soggetti, loro mi dicono ci piace quello lì, facciamo quello. Giuseppe Tornatore alla Rosa Purpurea, è arrivato il momento di salutarci, siamo arrivati in fondo alla nostra puntata ricchissima di ospiti, di notizie e di film. Noi non possiamo fare altro adesso che salutare, come sempre, Giorgio De Luca per il lavoro in redazione, Peter Bescapè per quello alla regia e darvi appuntamento la prossima settimana ricordandovi di cercarci su Facebook, sulla nostra pagina Radio 24 La Rosa Purpurea, cliccate mi piace e unitevi al nostro sempre più folto gruppone. Un saluto da Franco D'Assisi.